La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, buon Natale a tutti da Franco D'Assisi, da tutto lo staff della Rosa Purpurea, perché questa è proprio la puntata natalizia. Non potevamo essere più tempisti di così quest'anno con il calendario. Sabato e domenica di feste natalizie, sabato e domenica come sempre di cinema qui su Radio 24. Ultima ondata di uscite per quanto riguarda questo Natale 2011, sono parecchi film rispetto al solito per questo weekend, se ne contano 7-8 nuovi praticamente che arrivano nelle sale e questo chiaramente è un programma che come sempre fa delle scelte. Ve ne parleremo diffusamente, ma lo facciamo come sempre cominciando con i titoli di testa. Il volto animato di Santa Claus, che stavolta dimentica i regali di un bambino e mette in atto un piano degno di Mission Impossible per consegnarlo. È Il figlio di Babbo Natale, commedia in 3D firmata da Sarah Smith. Amori, sofferenze, ambizioni, tutto si intreccia nella notte di Capodanno nella Grande Mela. È Capodanno a New York, commedia collettiva con un cast tutte stelle, da Robert De Niro a Michelle Pfeiffer, da Zac Efron a Sarah Jessica Parker. Ma il risultato non convince fino in fondo. Quando la timidezza fa il cioccolato migliore. Arriva dalla Francia Emotivi Anonimi, deliziosa commedia su una cioccolataia di talento che non riesce a rapportarsi con gli altri, ma troverà un produttore altrettanto riservato che ne farà una vera star, campione d'incassi in Francia. Habemus Morandini. Il decano dei critici italiani dedica al film di Moretti, Habemus Papam, l'onore della prima pagina della sua nuova edizione del ponderoso dizionario. L'autore ci svela il perché di questa scelta e altri piccoli segreti della sua opera. Primo battaglione elfi operativi, pronti! Raddrizza quell'orsacchiotto, soldato! Sì, signora! Oh, oh, oh! Ha dato lo, oh, oh, Arus! Elfi operativi, slittare! Slittare, slittare! Tempo consegne 18.4 secondi per casa! Slittare, slittare! Avete sentito questa azione degna di Mission Impossible? Dai tetti di una città dove si vanno a consegnare i regali, gli elfi di Babbo Natale scendono da questa slitta super tecnologica e vanno appunto a fare il loro mestiere. Abbiamo voluto cominciare con Il figlio di Babbo Natale perché è un film d'animazione in 3D, viene da una genia, diciamo, di autori importanti che hanno già la fucina, insomma, è quella che ha forgiato Wallace and Gromit, Gallina in fuga, Giù per il tubo, eccetera eccetera, e perché insomma è Natale, quindi ci piaceva cominciare con questo film che nella migliore tradizione del Natale recente mette insieme tutta la famiglia e non è solamente diretto ai bambini. Noi siamo già in collegamento con Boris Sollazzo, che anche per una questione fisiognomica abbiamo scelto per fare Babbo Natale e per farci raccontare questo film. Buongiorno e auguri, Boris. Buon Natale Franco, buon Natale a tutti gli ascoltatori e grazie di questa considerazione. Probabilmente ti riferisci soprattutto alla mia enorme pancia più che alla mia barba. No, beh, mi riferivo a tutte e due, però mi rispecchio in questa cosa, quindi non preoccuparti, puoi andare sereno. Bene, no, io devo dire che facciamo bene a cominciare con Il figlio del Babbo Natale in 3D, anche perché secondo me è il miglior film della settimana, non perché io mi senta più buono, perché nemmeno il Natale riesce in questo miracolo, ma perché è una favola di quelle che ultimamente vanno per la maggiore a Natale, cioè quello che diciamo rivisita in chiave, non dico politicamente scorretta perché è esagerato, però in chiave diversa la retorica del Natale. Qui abbiamo un Babbo Natale che ormai ha un'astronave slitta, che ha una catena di montaggio per consegnare i regali che gli permette, grazie alla velocità dell'astronave, di fare ogni casa in 15-18 secondi. Insomma, sembra più un pit stop che un Natale e sembra questo voler togliere poesia al Natale. Solo che l'imprevisto fa risorgere la forza del sentimento e quindi un bambino si perde in questa perfetta organizzazione, si perde un regalo e a quel punto il meno efficiente della famiglia, il figlio minore, però quello più attaccato allo spirito originale del Natale, pretende che nessun bambino rimanga indietro sostanzialmente, e che in barba all'efficienza si cerchi di dare anche quel regalo a quel singolo bambino. E lì diventa una delle favole, secondo me, natalizie più forti che abbiamo visto, perché è molto dolce, molto divertente, molto simpatico, è anche un film d'azione, perché appunto diventa una sorta di Mission Impossible, perché gli imprevisti si moltiplicano e alla fine si esce col cuore più leggero e un sorriso sulla faccia, e francamente a Natale è il meglio che si possa chiedere. Questa è la vera slitta. Ciao, Ivy. Pensavo fosse stata rottamata anni fa. Lo pensavano tutti. Posso? Betulla della Groenlandia, balsa dell'Artico, costruita nel 1845, arriva a 50.000 miglia all'ora a un'altezza di 12.000 metri. Aiutami, festone stremezzito! Ce l'ho! Potassa di carbonilo rossio amelior citrato. Polvere magica! La polvere magica che copre appunto, tra l'altro, tutto l'ambiente nel quale giace questa slitta di Babbo Natale. Lo stupore, avete sentito, e anche questo quasi andare dietro le quinte della preparazione del Natale sono alcuni degli ingredienti vincenti di questo film, Boris. Assolutamente sì, cioè c'è una voglia di andare oltre la facile deduzione natalizia, e in fondo quella che di solito viene usata come genere chiave della commedia natalizia, cioè il genere familiare, addirittura lo si rapporta a Babbo Natale stesso, cioè Babbo Natale è un padre, è un padre padrone se vogliamo, perché è sia il padre dei due protagonisti sia il loro datore di lavoro. E questo in qualche modo crea, secondo me, quel meccanismo che così brillantemente poi funziona all'interno di questa commedia, che tra l'altro, come tu hai ricordato, viene da una scuola d'animazione davvero molto valida, che anche qui si conferma di altissimo livello. Margaret, passami il mio famoso vestito. Tutto a posto. Steve, resta a sorvegliare mentre io consegno il regalo, sì. E trovo Arthur e il nonno. Bravo tesoro, Treliu è su una rotta 187.7 gradi dal polo geografico, ma trattandosi della vecchia slitta consideriamo una deriva di 1000 miglia dai due lati del meridiano di Greenwich. Ho un maglione per Arthur, le pasticche di tuo padre e del tè ben zuccherato. E allora questo è Il figlio di Babbo Natale, film che dovrebbe riuscire a penetrare nella top 10 della classifica della prossima settimana. Non sono tanti film di questa settimana che hanno queste ambizioni, ovvero ce le hanno tutti, ma forse sono più forti i film che già stavano in sala. Sentiremo di Capodanno a New York, che forse i primi giorni qualcosa combinerà, nonostante i tanti suoi difetti che saranno presto svelati e faranno parte di un passaparola probabilmente negativo. Dico questo perché la classifica invece dice altro, cioè dice che Sherlock Holmes è partito come ci si aspettava, fortissimo, con 3 milioni e mezzo di incasso nel primo weekend, primo posto consolidatissimo in classifica, tra l'altro primo posto anche in America, perché è uscito in contemporanea, con 40 milioni di dollari nel primo weekend. E poi un'altra new entry, Il gatto con gli stivali, animazione anche in questo caso, con 2 milioni e 2 nel primo weekend. Questo spin-off di Shrek sta funzionando molto molto bene. Parte, ma vogliamo dire lento, forse non lentissimo, ma insomma neanche forse come i suoi fasti più celebrati, Leonardo Pieraccioni, con Finalmente la felicità, 1.600.000 e terzo posto nel primo weekend. Cinepanettone battuto ancora una volta, anche lui 1.600.000 e qualcosa in meno per il quarto posto per il film di Neri Parenti. Lady di marzo, ecco qui il film da cui, con una locandina che mette le facce di George Clooney e Ryan Gosling, ci si aspettava davvero di più, anche perché il film li vale, ma forse non è un film tanto natalizio nei temi, quindi ci vuole tempo e ci vuole permanenza per avere il suo pubblico. Lady di marzo, dicevo, è al quinto posto. Scende dopo settimane in prima posizione Midnight in Paris di Woody Allen, al sesto posto, ma con un incasso globale di quasi 7 milioni di euro, che durante le vacanze, mi vado a vedere, questo è un film molto natalizio invece, durante le vacanze potrebbe davvero ancora salire. La rosa purpurea. Buongiorno Angelique. Emotiva. Buongiorno, Angelica. Ebbene, da questo svenimento siamo già entrati nel clima del film di cui vogliamo parlarvi, Emotivi Anonimi, un film di produzione franco-belga diretto dal francese Jean-Pierre Amery, E allora, avete sentito, Angelique non se la passa benissimo, insomma, è molto emotiva e va a frequentare una di quelle riunioni tipo alcolisti anonimi dove tutti si siedono intorno e dicono il proprio nome, dicono qual è il loro status in quel momento. E l'inizio di questa commedia, e l'inizio più che l'inizio è l'assunto centrale di questa commedia che mette di fronte, mette in mezzo un tema come quello della timidezza che però in questo caso, anche perché è un po' è Natale, un po' c'è di mezzo il cioccolato che di questi tempi al cinema funziona molto, dicevo, non è sempre un fatto che impedisca poi un certo successo nella vita e nel lavoro. Boris Sollazzo, allora, commedia cioccolatosa che ci dice che anche i timidi sanno fare un cioccolato importante. E tu mi dirai che a Natale io divento più buono perché addirittura passo e promuovo tutti e due i film di cui abbiamo parlato, perché anche Motivi Anonimi è molto gustoso, non solo perché il cioccolato è buono e perché sembra buono anche quello che mostrano nel film, ma perché in qualche modo usa la furbizia di usare appunto il tema del cioccolato, come fece già la Salson con il cioccolato, e il tema della commedia sentimentale, tanto caro al cinema francese, li unisce estremamente bene, tra l'altro con gusto dell'ironia, di una certa dolce comicità molto molto azzeccata, voglio dire, quella clip che hai fatto sentire illustra alla perfezione l'anima del film, no? Una donna che dice piacere, emotiva, tutti la salutano in coro e per lei è emotivamente troppo forte come impatto e sviene. E il film si fonda molto su questa intuizione che è molto divertente e su, secondo me, due grandi protagonisti, tra cui mi piace ricordare Isabelle Carré, che a mio parere è assolutamente straordinaria e che dà a questa insicura cronica uno spessore straordinario che va al di là della sceneggiatura un po' furbetta. Anche lui, Benoît Poulvereud, va detto rigido, invece completamente diverso, ha una grande efficacia. Alla fine viene fuori una commedia sentimentale molto divertente, anzi, parlando di cioccolato, direi molto dolce. Aspetti, volevo dirglielo, la sua cioccolata era eccellente. Lei ha un dono, deve solamente coltivarlo. Se le danno le ali, mia cara, lei potrà volare. Grazie. Tutto le fa paura, vero? Parlare con la gente, entrare in un negozio, vivere, è così? Anche lei. Io lo nascondo, sa? Ci si può riuscire. Ho una piccola attività, una sala da tè, la confetteria Mercier, Mercier è il mio nome. E mi piacerebbe avere una nuova gamma di cioccolato artigianale. Vorrei assumerla come cioccolataia. Questo è il momento appunto dell'assunzione in cui Angelique, rimasta appunto senza lavoro, trova qualcuno come lei. Ecco, è anche in questo Boris che scatta il film, che ha uno scarto in avanti, proprio nel cercarsi fra persone che si somigliano. E da una parte, dall'altra nel cercare però anche la contraddizione, cioè lei viene assunta come rappresentante ed è una donna che ha fatica a stare anche con qualsiasi persona di qualsiasi tipo, quindi c'è l'intelligenza di un regista e di sceneggiatori che decidono di porre senza provocare, semplicemente mettendoli in fila tutta una serie di piccole commedie, degli equivoci sentimentali che risultano molto efficaci. Anche l'incontro tra simili poi li fa apparire non così simili. Devo dire, insomma, molto elegante, molto delicato, molto raffinato, quindi assolutamente un bel modo per passare uno di questi giorni di festa. Che state facendo? Signorina Delange, approfittavamo della pausa pranzo per fare una piccola degustazione. La pausa pranzo, ma sono le 10. Ah sì? Che cos'è? I cioccolatini del negozio di Mercy. Senza dubbio gli ultimi che mangeremo comunque. Ah sì? Perché? Oh, beh, perché Mercy è morto. E non si è più trovato il suo cioccolataio. Un vecchio eremita che si nascondeva nel Jura. Nel Vercors. Uno molto molto dotato. Io l'unico che sapeva come contattarlo era Mercy, che si è portato il segreto nella tomba. E allora questo era il film Emotivi Anonimi. Noi ringraziamo e salutiamo e auguriamo ancora buon Natale al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buon Natale a tutti voi. E allora questo quindi il nostro film, il nostro secondo film. Noi siamo arrivati adesso invece alla prima finestra sul gioco, che non vi abbandona, anzi non può abbandonarvi proprio a Natale. Insomma, i regali si fanno soprattutto a Natale, noi li facciamo tutto l'anno, li facciamo anche a Natale. E oggi giochiamo con un grande film italiano, sentiamo. Ci siamo trovati in strada e lui mi ha detto che non dovevamo dividerci mai. Al contrario, dovevamo stringere sempre di più la nostra vecchia amicizia, che si trattava in fondo di rivoluzioni. Avete sentito bene le parole, eh? Si trattava in fondo di rivoluzioni. La Rosa Purpurea, @radio24.it, diteci di che film si tratta, inserite il vostro indirizzo per provare a vincere una bellissima copia di questo film in DVD o Blu-ray. Più tardi ci saranno altre due possibilità. Parliamo adesso invece di un colossalone che arriva nelle sale in questo fine settimana natalizio, Il Principe del Deserto, un titolo che già provoca fascino, fa sentire rumori di strumenti nordafricani o arabi, ed è un film firmato da un regista esperto in questo tipo di grandi situazioni, di grandi spazi, di colossal che hanno bisogno di respiro. Pensate al Nome della Rosa, pensate a Sette anni in Tibet, pensate all'Orso che perseguì ante litteram tutta una serie di film naturisti. Ebbene, Il Principe del Deserto è firmato da Jean-Jacques Annaud. Il cast: Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong, Frida Pinto, anche qui attori di grande livello, per un'avventura che ci porta all'inizio del XX secolo, in una sorta di striscia di terra di nessuno nel deserto arabo, dove da una parte il vincitore, dall'altra lo sconfitto di una guerra, due sultani, Nesib, emiro di Obelka, e il perdente Amar, sultano di Salma, si trovano appunto in questa sorta di striscia di nessuno per promettersi che non ci sarà più guerra, ma anche per pretendere una sorta di riscatto, che in questo caso il vincitore chiede, e sono i due figli del perdente. Ecco le mie condizioni. Io voglio soltanto la tua amicizia. E i miei figli? Beh, è un'assicurazione per tutti e due. Finché saranno sotto il mio tetto, io non potrò farti guerra. Ma la spada è sempre a doppio taglio. Neanche noi possiamo fare la guerra a te. I tuoi figli saranno la nostra garanzia di pace. Li crescerò come se fossero miei, con mio figlio Tariq e mia figlia Leila. E la striscia gialla? Dovremmo ridere di noi stessi per aver fatto la guerra per questo pezzetto di sabbia. D'ora in poi la considereremo una terra di nessuno tra noi e voi. Né mai la reclameremo. Che Dio sia mio testimone. Cosa succede allora? I due bambini verranno cresciuti proprio da Nesib, che è interpretato da Antonio Banderas, e costituiranno proprio una sorta di forma di garanzia e di questo trattato di pace, che prevede che questa striscia gialla sia, appunto, come avete sentito, non rivendicabile da nessuno. Succede invece che, maledetto lui, arriva il petrolio. Arriva con un aereo, un Piper ante litteram, un petroliere texano che si porta in questo deserto, fa con il principe Nesib, che è molto sensibile alla pecunia e quindi, come dire, si lascia andare molto facilmente, lascia installare centinaia e centinaia di pozzi di petrolio. Questa cosa non è sicuramente quello che faceva parte dei patti. Quella striscia doveva essere proprio di nessuno. Oh, siete un artista, signor Turkettle? No, signore, lavoro per una società petrolifera, la Texan Oil. Ah, beh, non c'è petrolio qui, signor Turkettle, solo sabbia. Il sole e il vento. Metà dell'anno soffia da est ed è inverno. L'altra metà soffia da sud ed è estate. Io mi permetto di dissentire, signore. Oh. Questa è argilla nera. Ecco, ce n'è senz'altro parecchia qui in giro. Di solito è un'indicazione che c'è petrolio nel terreno. Vi prego, odoratela, maestà. Di che cosa odora? Di petrolio. Esatto, l'argilla è come una spugna e non è un petrolio qualsiasi. Annusatela di nuovo, maestà. Ha un odore amaro o dolce? Dolce, molto dolce. Ecco, esatto, dolce petrolio grezzo, il miglior petrolio al mondo. E voi, signore, ci scommetto il mio ultimo dollaro, sedete sulla porzione più grossa. Preparatevi a diventare ricco. Ricco? Infinitamente ricco. Sono tanti i rivoli in cui appunto si divide poi questo film. C'è anche quello dei ragazzi, dei giovani, di un principe, questa è la storia principale, di un principe che a questo punto, dopo questa rottura dettata dal petrolio, sceglie di combattere, di diventare il capo dell'esercito e praticamente a un certo punto di trovarsi contro uno dei suoi padri, ed è proprio il personaggio interpretato da Tahar Rahim, e chiaramente questo sarà un po' forse il momento migliore del film, quello che sta in mezzo al deserto, che sta nelle battaglie, negli incontri con tantissime tribù che non sono affiliate a una o all'altra parte, in questo attraversamento del deserto mortale per uomini e animali fino a quando non si arriva al mare, in questa scoperta straordinaria di una sorgente di acqua pura sotto il mare. Le immagini sono davvero spettacolari. Insomma, forse lì sta il ventre più riuscito del film, e l'amore, ovviamente, l'amore di questo principe con la bella principessa di parte opposta, che è appunto Frida Pinto, ricorderete in The Millionaire, la ragazza è cresciuta ed è cresciuta piuttosto bene. Insomma, un film per chi ama la natura, i grandi spazi, il colossal come veniva interpretato in altre epoche. Sentiamo che cosa ci ha detto in questo senso proprio il regista Jean-Jacques Annaud. Mais ce que j'aime dans le cinéma c'est le voyage, c'est l'évasion. Quello che mi piace nel cinema è il viaggio, l'evasione e direi anche lo spettacolo attorno a un tema. In tutti i miei film ho cercato di portare la gente in un universo che permetta di uscire dal quotidiano. Sortir du quotidien. Et c'est pourquoi la fable. Ecco perché le favole, quelle che si raccontano con lo sguardo di un bambino, sono spesso collocate in un universo immaginario, un mondo del passato che ha delle ambientazioni meravigliose. Ecco perché, istintivamente, io mi trovo meglio a girare dei film situati in luoghi lontani e in epoche staccate dalla contemporaneità, che a volte fanno passare in secondo piano il senso principale. Là dans le film Il principe del deserto, l'essentiel. Il film Il principe del deserto era incentrato sulla trasformazione del personaggio del bibliotecario, che è un po' come il personaggio del Nome della Rosa, si trasforma e diventa un leader carismatico. È un problema eterno, ovvero quello della tradizione contro la modernità. Un problema che riguarda anche noi, oggi, in Europa. Non è un problema che riguarda solo il mondo arabo degli anni 30, misterioso e leggendario al tempo stesso, nel quale si svolge il film. Ecco perché ci prende in contropiede. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta e definitiva proposta, almeno di quelle che abbiamo preso qua in considerazione alla Rosa Purpurea per questo fine settimana natalizio al cinema, il film di Gary Marshall, il regista che chiaramente nel mondo è conosciuto soprattutto per Pretty Woman, non è chiaramente l'unico film di successo che ha firmato, però insomma un regista esperto in polpettoni romantici, sentimentali, a volte riusciti sotto forma di commedia, a volte magari un po' meno, come quando capitò con Paura ad amare con Michelle Pfeiffer e Al Pacino, per esempio, nel 91, per poi tacere delle più recenti sue prove. È un regista che ha anche una sua certa età, 77 anni, al quale è stato chiesto sostanzialmente di fare una sorta di film spottone per New York, che si intitola New Year's Eve, ovvero nel titolo italiano Capodanno a New York. Il cast è collettivo, quindi non è che ci sia un attore principale, sono tutti un po' sullo stesso livello, tranne qualche cameo, ma mette insieme nomi che vanno da Robert De Niro a Zac Efron, da Ashton Kutcher a Jessica Biel, da Halle Berry a Hilary Swank, da Michelle Pfeiffer a Sarah Jessica Parker, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, avrete capito che si tratta di un film che mette in scena numerosi personaggi, a volte coppie, a volte personaggi singoli, a volte persone che cercano l'amore, a volte persone che stanno soffrendo gli ultimi giorni della loro vita, e li mette in scena nel giorno del 31 gennaio a New York, nello sfondo sempre affascinante della Grande Mela. E allora andiamo un po' a conoscere questi personaggi e le loro storie, cominciando con il personaggio di Hilary Swank, che è niente meno che la donna responsabile della società che organizza lo show di Times Square. Molti di voi l'avranno visto magari in televisione, quello in cui a un certo punto una enorme palla luminosa a mezzanotte viene a scendere, a cadere quasi verso il pubblico per augurare il buon anno. Le va di fare una dichiarazione per il notiziario? Certo, molto volentieri. Stiamo parlando con Claire Morgan, la nuova vicepresidente della Times Square Alliance. Allora, grande notte. Beh, definirla grande forse è un po' riduttivo. Oltre un miliardo di persone in tutto il mondo ci guarderanno quando stasera la sfera cadrà. Quindi direi che sarà una notte molto, molto grande. Dove devo guardare per la telecamera? Siamo alla radio. Alla radio? Naturale. E quindi una Hilary Swank un po' spaesata di fronte al suo primo grande incarico nella notte più importante dell'anno per quanto riguarda questa società. Ovviamente l'inghippo sarà che la palla avrà dei problemi, diciamo così, e allora partirà tutta una ricerca del vecchio operaio capace, l'unico capace. Allora qui la valorizzazione del vecchio artigianato in questo tempo tecnologico, l'unico capace con le mani di andare a aggiustare magari il fusibile che permette che lo spettacolo vada avanti come vuole appunto la regola. C'è poi una coppia, forse la cosa più riuscita del film. Io ho provato ad analizzare un po' i personaggi, devo dire che l'unica storia di questo rivolo di storie che mi ha davvero convinto, dove non senti la plastica che ti avvolge, dove non senti dove senti invece intanto un'originalità nel racconto di due personaggi e poi anche un po' di malizia, se vogliamo, è quella fra Zac Efron e Michelle Pfeiffer. Ora, Zac Efron e Pfeiffer, come sapete, si sono già incontrati nel loro percorso artistico. Ricordate il bellissimo musical Hairspray, dove appunto c'erano questi due attori che avevano anche delle parti in comune. Stavolta personaggi molto diversi. Zac Efron è un fattorino che abitualmente nel suo giro porta la corrispondenza a una casa discografica nella quale lavora appunto il personaggio di Michelle Pfeiffer, che è invece una segretaria abbastanza ormai in là con gli anni, che però non ha mai detto di no, molto timida, un'emotiva anonima potremmo dire, citando il film di prima, che non si è mai ribellata al suo capo, che ne ha subito le continue vessazioni, e uno sguardo a un certo punto diventa quasi galeotto. Oh, salve, i propositi per l'anno nuovo, eh? No. D'accordo. Devo consegnare una busta per il signor Jonathan Cox. Lei lavora qui? No, in realtà lavoro per un corriere. Le consegno pacchi da almeno, non lo so, diciamo un anno, ma credo che questa sia la prima volta che lei mi guarda negli occhi. Come va? Mi scusi. È uno dei miei propositi, guardare di più gli altri negli occhi. Ecco, è bello, ve lo facciamo adesso sentire, perché questa storia si sviluppa. Cioè, questa signora a un certo punto, dopo l'ultima, ennesima e definitiva vessazione del suo capo, si licenzia. Si licenzia proprio nella notte del 31 di dicembre e insieme al licenziamento si porta dietro una specie di lista dei desideri che chiederà proprio al giovane fattorino di aiutarla a realizzare. Chiaramente la cosa non sarà, come dire, priva di qualche deriva sentimentale. Signorina Withers, ha chiamato per una consegna. Ingrid. Ingrid. E sono io. Il tuo prossimo incarico. Ti assumo per la giornata. Mi assume per la giornata? Sì. Oh, signorina Withers, forse dovrai essere offeso, ma sono troppo curioso. I miei propositi per l'anno nuovo. Mm-hmm. Ho appena realizzato il primo. Cioè si è licenziata? Splendido. E se mi farai realizzare gli altri entro mezzanotte, avrai questi. Non li faccia vedere, è pericoloso. Ha scelto quello giusto. Ecco, allora avete sentito anche questa storia. E poi ci sono quella della madre, già Sarah Jessica Parker, con la figlia 14enne che vuol passare assolutamente la notte a Times Square, ma lei non vuole, allora lei scappa, eccetera, eccetera. Cioè, immaginatevi già come può andare questa storia. E c'è la storia delle due coppie in attesa di un figlio che fanno a gara, quasi con un cronometro, per partorire un secondo dopo la mezzanotte e vincere il premio per il primo bambino che nasce nell'anno nuovo a New York. E c'è anche la storia dell'ascensore, quella che mette insieme un sex symbol come Ashton Kutcher insieme alla sua bella, in questo caso una cantante, una corista rimasta bloccata. Nel film c'è anche John Bon Jovi, quello vero, il cantante che interpreta ovviamente una rockstar. Ebbene, questa è una corista di questa rockstar che è rimasta bloccata in questo ascensore, e c'è chiaramente quello che nelle ore, in 8 ore passate in ascensore, diventa un vero e proprio flirt. Siamo bloccati in ascensore insieme, davvero non mi vuoi più parlare? Bene, parliamo allora. Ma dato che stiamo tirando a indovinare su chi è l'altro, voglio provarci anch'io. Tu sei cresciuto in una periferia, una vale l'altra. Poi una rinomata facoltà umanistica. Ma non hai avuto sufficiente ambizione per trovarti un lavoro vero. Allora ti sei fatto crescere la barba e ti sei trasferito a Manhattan grazie ai soldi di tua nonna. Beh, ho indovinato. Periferia del Maryland. Tufts University. E sono un disegnatore di fumetti. E la barba ci è voluto un anno per farla crescere. E allora, cosa funziona e cosa non funziona in questo film? Quello che funziona è poco. Sono tanti attori. Voglio parlare di Robert De Niro, malato terminale, che chiede di poter tirare fino a mezzanotte per vedere questa famosa palla che scende. Scopriremo anche che c'è anche in questo caso un'implicazione sentimentale. Però attori che fanno il loro piccolo esercizietto e vanno via. Un film che proprio programmaticamente non ha una storia, ma questo è un problema che si sente molto. Per esempio, si diceva con alcuni colleghi dopo la visione in anteprima del film, la storia appunto di Zac Efron e Michelle Pfeiffer forse avrebbe potuto avere un peso maggiore e diventare un po' una sorta di trait d'union, di fil rouge all'interno del film, sul quale poi mettere in contorno altre vicende. Insomma, un film che soffre un po' di una certa frammentazione e non decolla mai, e questo è un po' il risultato alla fine di una impostazione di questo tipo. Poi c'è la melassa, il problema è che quando esce al cinema ti devi fare subito una doccia per toglierti di dosso lo zucchero che è piovuto dal cielo, perché sappiamo benissimo che gli americani, anzi dallo schermo, sappiamo benissimo che gli americani sono maestri proprio in questo, cioè nell'erogare buoni sentimenti soprattutto a Natale e a Capodanno, e quando sono troppo buoni e sono troppo programmati diventano davvero di plastica. Abbiamo parlato di Capodanno a New York, l'ultima delle scelte della Rosa Purpura per questa settimana, per questo weekend natalizio, seconda traccia del DVD Game. Napoleone III è il nemico della libertà italiana e allo stesso tempo il sostegno dei governi che tengono schiava l'Italia. Se li cade tutte le nazioni, a cominciare dalla Francia, insorgeranno per liberare i popoli schiavi. Qui la storia diventa la storia, avete sentito, con la S maiuscola. La Rosa Purpura a chiocciola radio24.it, di che film si tratta, più tardi, l'ultima possibilità. Quello che è successo negli ultimi giorni, la sua elezione e tutto il resto, noi per un momento lo mettiamo da parte, perché vorrei che cominciassimo un po' a ripercorrere, provassimo a rivivere sue emozioni. Aspetti. Senta, immagino che io non possa chiedere... Assolutamente no. Immaginavo che di sesso non si poteva. Un accenno alla mamma? Beh, in questo momento potrebbe risvegliare episodi lontani, ricordi... Appunto. Appunto? No. No. E affrontare fantasie e desideri non realizzati? No. No. E qualcosa dell'infanzia? Sì. Con molta discrezione. Con molta discrezione. Bene, i sogni invece sì. Beh, dipende dai sogni. Comunque no. Meglio di no. Meglio di no. Perfetto. Grazie. Perfetto. Sì. Ecco, cambio di programma. Invece partiamo proprio da quello che è successo negli ultimi giorni. Non ce la faccio più ad andare avanti. Fantastico dietro front di Nanni Moretti dopo le indicazioni della curia su cosa dire e cosa non chiedere a un papa in crisi. Perché vi abbiamo fatto ascoltare Abemus Papam di Nanni Moretti? Perché oltre a essere stato nominato quest'anno miglior film dell'anno in assoluto a livello internazionale dai Cahiers du Cinéma, insomma questo poi sarà un tema che affronteremo la settimana prossima nella puntata speciale di Capodanno su ciò che rimane del 2011 e ciò che ci aspettiamo dal 2012 al cinema, è anche la copertina del dizionario del cinema firmato da Morando Morandini, che è in collegamento con noi. Ciao Morando. Buongiorno. Buon Natale, perché siamo proprio nella puntata più natalizia dell'anno, assolutamente. Morando, sì. Ti chiedo subito, la scelta di Nanni Moretti in copertina, ancora una volta un film italiano. Perché abbiamo cominciato nel 99 con una copertina su un film italiano, che era una copertina molto simbolica, e poi abbiamo continuato uscendo ogni anno, contrariamente al Merighetti che esce ogni due anni. Abbiamo sempre messo dei film italiani. In fondo è l'unica nota, diciamo così, nazionalistica del nostro dizionario, ed è forse la copertina più di moda. In che senso di moda, Morando? È più di moda nel senso che è un film di cui si è parlato tantissimo al di fuori dei suoi meriti specifici, mentre per esempio abbiamo dato una copertina a Giorgio Di Ritti, che non è un regista popolare. No, certo, beh, chiaro, ma questo ti chiedo, è una scelta che comunque rispecchia la tua personale classifica cinematografica, cioè per te Abemus Papam è il film dell'anno? È il film, cioè il film italiano dell'anno. Ho delle riserve sul film, ma sono le riserve che riguardano il narcisismo del suo autore. È vero che nel cinema romano i narcisi sono tanti, ma lui è il più narciso di tutti. Beh, questo senza dubbio è anche una delle sue caratteristiche che ne hanno fatto Nanni Moretti, so, in un certo senso, no? Senti Morando, ti chiedo invece quanto ai contenuti del dizionario. Ovviamente fare un dizionario di un anno con l'altro vuol dire portarsi dietro tutta una scorta di film che già c'erano, inserire qualcosa e forse anche togliere qualcosa, perché immagino che ci debba essere un equilibrio, altrimenti fra qualche anno ci sarà un dizionario alto 40 centimetri. Allora ti chiedo, di questo 2011, quali sono gli inserimenti, anche un titolo, che ti sta particolarmente a cuore e cosa avete dovuto magari invece lasciare per strada perché chiodo scaccia chiodo anche nei dizionari cinematografici? Allora, le due particolarità del dizionario di quest'anno è stato il fatto che a causa dei progressi tecnologici, parlo soprattutto del digitale, sono aumentati molto sia i documentari sia i film di animazione, anche italiani, perché col digitale sono diminuiti molti i costi dei film. I miei due registi italiani preferiti di questo periodo sono due registi a cui gli stessi critici italiani non danno l'importanza che hanno, secondo me, e sono Luigi Faccini e Daniele Segre. In fondo io sono il critico di cinema più libero d'Italia, nel senso che io vado a vedere un film, faccio una scheda che su questo film, e una scheda significa una recensione molto breve, che uscirà sul dizionario quando il film sarà già stato distribuito, per cui posso dire tutto quello che penso del film senza preoccupazioni di altro genere. Questo era Morando Morandini, il decano, fatemi dire il maestro dei critici cinematografici italiani, sempre un grande onore e un grande interesse proprio averlo qua in trasmissione, perché sono piccoli spunti che ci illuminano e ci fanno riflettere un po' anche su quello che facciamo qua poi settimana per settimana. La Rosa Purpurea. Eccoci arrivati alla quarta parte di questa puntata natalizia della Rosa Purpurea. Siamo come sempre allo spazio dedicato dai film da vedere in casa, perché poi soprattutto in questi giorni, in questa settimana, insomma, in casa ci si sta magari un po' di più ed è bello anche potendo evitare magari di fare i conti con gli orari tardi in cui passa molto spesso tanto bel cinema. Insomma, è bello anche potersi adagiare a qualche bella visione. Noi, siccome qua non ci piace mai fare le robe normali, abbiamo scelto un paio di proposte molto particolari anche per questo Natale, quindi niente miracoli sulla 34esima strada o vite meravigliose o babbi natali, ma Manuel de Oliveira, il centenario del cinema, il maestro portoghese che ha compiuto più di un secolo di vita e che continua a fare cinema impressionante, e poi un film molto particolare di cui parliamo fra un attimo. Cominciamo con de Oliveira, a cui è dedicata una doppia visione, diciamo così, di due film molto particolari del grande maestro portoghese, da Rai 3, e noi ne parliamo con gli amici del settimanale Film TV. È in collegamento con noi Nicola Cupperi. Ciao Nicola. Ciao Franco e un augurio a tutti i radioascoltatori. Sì, De Oliveira ha 103 anni e va ancora come una spia, non ha intenzione di fermarsi, e fuori orario Rai 3 nella notte del 25 e del 26 gli dedica due film, due fra i suoi film più riusciti in una filmografia sterminata. Appunto, domenica 25, la notte di Natale, alle 2 del mattino, La Divina Commedia. Ambientato in una clinica psichiatrica dove i pazienti si credono dei personaggi biblici, questo film finisce per parlare dei massimi sistemi con ironia surrealista e il solito estremo rigore dello sguardo. E invece il giorno dopo, Santo Stefano, la notte, il 26, sempre su Rai 3 alle 1.35, Monca, ambientato questo invece in un teatro dove si ha una rappresentazione su un testo di José Regio. Uno degli attori interrompe questa rappresentazione e De Oliveira finisce per destrutturare appunto l'idea del teatro e per parlare del teatro della vita, dell'uomo e perfino della creazione. E questo è quindi il doppio appuntamento con De Oliveira, Rai 3, non poteva essere che fuori orario a portarci queste perle, domenica 25, 2 di notte, lunedì 26, 1.35 di notte. La seconda segnalazione è per un film che mi fa molto piacere passi in televisione, perché l'ho trovato folgorante quando lo vidi al Festival di Venezia, ed è stato forse poi un caso che è rimasto un po' isolato. Lo dirigeva Dito Montiel, scrittore prima che regista, ed aveva insieme un cast, stiamo parlando del 2006, con Robert Downey Jr., che non veniva da un bellissimo momento, Shia LaBeouf, Chazza Palminteri, Channing Tatum, insomma un cast che da lì in poi è ridiventato un cast di stelle, ma è un film davvero straordinario, quasi shakespeariano per alcuni termini, ed è Guida per riconoscere i tuoi santi. È in programmazione su Rai Movie il 29 dicembre alle 14.10, dimentichi anche nel cast la fantastica Rosario Dawson. E appunto il film d'esordio di Dito Montiel, uno scrittore appunto prima che un regista, è un film totalmente autobiografico che parla appunto di Dito, che riceve una telefonata improvvisa della madre che lo richiama a casa, a New York, dove dovrà affrontare il rapporto conflittuale con il padre malato, la sofferta storia d'amore con Lori e soprattutto i fantasmi di un'estate passata. E Montiel narra la sua storia con sincero pudore, una storia che gli appartiene e lo fa con forza, una forza lontana dal canone narrativo dilagante anche nel cinema indipendente americano. È un esordio veramente fulminante che purtroppo, come dicevi, è rimasto un po' campato per aria, perché i due film successivi di Dito Montiel non sono stati propriamente all'altezza. E la segnalazione quindi per Guida per riconoscere i tuoi santi è Rai Movie 14.10 giovedì 29 dicembre, un film davvero da non perdere. Grazie a Nicola Cupperi di Film TV. Grazie mille Franco e un augurio a tutti i radioascoltatori da Film TV. E questo per quel che concerne allora le segnalazioni di Film TV. Buon Natale anche a tutti gli amici del settimanale di cinema in televisione. Noi siamo arrivati alla terza e conclusiva traccia del game di oggi. Sentiamo. Solo miseria, orrore e miseria. No, no, per carità. Ma voi tenete ragione. Infatti i piemontesi ci hanno portato tanta miseria. Però non mi sembra una buona ragione per rimpiangere i Borboni. Se lo dite voi. L'ultima speranza che abbiamo è Garibaldi. Se riesce ad arrivare a Roma, tornerà ad essere un uomo potente. I dialetti di un'Italia ancora lontana sono la chiave, anche una delle chiavi di questo straordinario film. La Rosa Purpurea a @radio24.it, diteci di che film si tratta per provare a vincerlo. Noi 7 giorni fa avevamo giocato così. Gli Dio, venuti a prendere in barca e portati a Bangkok. Una notte da paura, stronzetti. Oh, fermo. Aspetta un momento. Ciao. Siamo a Bangkok. Orrare, città della squallare. Si trattava di Una notte da leoni 2, il sequel della commedia che ha strapazzato il box office durante la scorsa stagione. Lo hanno indovinato per primi e quindi vincono il Blu-ray di questo film Michele Chetta di Cellatica, provincia di Brescia, e Francesco Albertini di Torino. Saranno loro a ricevere questo Blu-ray di cui parliamo subito adesso con il nostro Claudio Pofi. Un saluto e un augurio anche a Claudio. Ciao. Ciao Franco, un saluto e un augurio ai nostri ascoltatori. Allora, questo divertente film è arrivato in home video, c'è un ottimo DVD, noi consigliamo anche in questo caso il Blu-ray di notevolissima qualità, che però ripropone la traccia in Dolby Digital multicanale italiano, che è identica a quella del DVD. Per l'alta risoluzione c'è l'inglese DTS e interessanti gli extra. Sicuramente c'è questo cosiddetto documentario non autorizzato, tra virgolette, con dei segreti della lavorazione. Ci sono vari approfondimenti sulla produzione e le location e una raccolta delle sequenze di scene d'azione del film. Certo che il documentario non autorizzato di un film che è già tutto un po' autorizzato come Notte da Leoni sicuramente si fa guardare. Un paio di proposte importanti e anche un po' del passato del cinema italiano migliore. Partiamo con Il conformista. Quando gli ho esposto il vostro piano, ha detto subito: superbo. Avvicinare il quadri, ispirargli fiducia, entrare nell'organizzazione, cercare di scoprire i suoi corrispondenti qui in Italia. Sì, superbo. E quel che più conta, spontaneo. Anzi, volontario. Opera volontaria. Repressione antifascismo. Nell'Italia fascista e con la guerra alle porte, Marcello, spia della polizia politica, si reca a Parigi in viaggio di nozze, ma in realtà la luna di miele è una copertura all'insaputa della moglie e deve eliminare il suo ex professore di filosofia, che ora è un dissidente politico. Con la fede nel regime sempre meno solida, Marcello si innamorerà proprio della moglie del professore, rischiando di compromettere l'operazione. Storia di un uomo che per trovare la pace interiore perduta dal fanciullo si accoda all'ideologia di maggioranza, tra grottesco e angosciante. Uno dei capolavori del maestro Bertolucci, con le tematiche a lui care, erotismo, politica, la sempre amata Parigi e lo stile inconfondibile e meraviglioso della fotografia di Vittorio Storaro. Arriva in alta definizione il capolavoro Il conformista, formato cinematografico originale, disponibile per la prima volta, immagini restaurate con un balzo superiore rispetto al DVD. Abbiamo una traccia di qualità CD, non solo in italiano ma anche in inglese, e notevolissimo questo bellissimo documentario di un'ora intitolato All'ombra del conformista, con un'esclusiva intervista a Bertolucci realizzata nel giugno del 2011. È stata presentata al Film Festival di Pesaro lo scorso mese di giugno la versione restaurata sul grande schermo, piazza gremita per questo capolavoro di Bernardo Bertolucci. E adesso Sbatti il mostro in prima pagina. Se lei pensa che ne valga la pena, via libera. Certo, bisognerebbe trovare l'assassino prima delle elezioni. Così faremo contenti anche i nostri amici. Quello che loro vogliono è che la tensione non cali. Il caso si può montare, anche se l'assassino, il mostro, non dovesse essere perfetto, ma forse lo è, chi può dirlo? Milano, anni 70, teso clima politico in un paese che inizia a fare i conti con il terrorismo. Nella redazione di un quotidiano filodestrista, il caporedattore, su invito della proprietà, segue un caso di omicidio a sfondo sessuale per strumentalizzarlo, incastrando un militante al fine di screditare la sinistra e l'opinione pubblica. L'operazione andrà in porto, ma la notizia sul vero assassino ancora una volta verrà tenuta celata per scopi politici. Ideologizzato, il film cala in modo diretto lo spettatore negli anni dell'Italia di piombo, anticipatore di ciò che i media sono diventati oggi, tra le opere più belle del maestro Bellocchio, con un grandissimo Gian Maria Volonté. L'edizione di Minerva Raro Video, con immagini di buona qualità, audio Dolby Digital monofonico sicuramente accettabile. Come extra molto interessante questo incontro della durata di circa mezz'ora con il maestro Bellocchio, realizzato in esclusiva per questo DVD. Grazie allora Claudio Pofi, queste le segnalazioni natalizie dell'on video della Rosa Purpure. Ancora auguri Claudio e a risentirci la prossima settimana nella puntata speciale di Capodanno. Un saluto, buone feste. E abbiamo finito la nostra corsa qui alla Rosa Purpurea, è arrivato il momento del panettone e allora auguri a tutti, noi ci risentiamo la prossima settimana regolarmente il 31 sera, e per chi ci ascolta in replica il 1 gennaio nel primo pomeriggio sarà una puntata speciale, come dicevo, grandi firme del giornalismo cinematografico italiano saranno con noi per raccontarci cosa rimane di questo 2011 e cosa sarà, cosa ci dobbiamo aspettare dal 2012 del cinema. Un augurio e un saluto da Franco D'Assisti.